42 chilometri complessivi. È questa la lunghezza totale dei portici di Bologna, un elemento architettonico che imprime alla geometria urbana della città un aspetto unico, tanto affascinante quanto utile. Per secoli i portici hanno permesso a generazioni di bolognesi, studenti e visitatori di camminare al riparo dalle intemperie. Hanno reso possibile agli artigiani di lavorare all'esterno delle botteghe in piena luce. Hanno consentito ai piani bassi degli edifici della città medievale di liberarsi dall'umidità e dalla fanghiglia che si accumulava. A posteriori conosciamo bene i vantaggi dei portici. Ma cosa ha spinto le amministrazioni medievali a ridisegnare la città secondo questo canone architettonico? Ci sono almeno due teorie al riguardo, ed entrambe hanno alla base l'esplosione demografica del XII secolo. In quel periodo, infatti, a Bologna iniziò il boom economico e sociale di cui abbiamo parlato nel primo capitolo del libro, e allo stesso tempo si affermava il prestigio dello Studium, l'università bolognese. Lo Studium attirava centinaia di studenti da tutte le parti d'Europa. Costoro appartenevano ai ceti sociali più agiati, il più delle volte si trattava dei rampolli delle famiglie nobiliari straniere, che arrivavano in città con un seguito di servitori e persino artigiani. Ovviamente si pose il problema di dove alloggiare tutti questi studenti, dato che il perimetro della città era delimitato dalle mura, e la risposta fu ingrandendo gli alloggi esistenti, espandendo i piani superiori degli edifici verso la strada. Inizialmente, per sostenere le pareti sporgenti, si ricorse a un sistema di mensole dette beccadelli, ma in seguito le sporgenze si fecero sempre maggiori e divenne prassi sostenerle con delle travi di legno per evitare che i piani crollassero. La seconda ipotesi presume che i saccheggi fin troppo frequenti nella regione abbiano spinto la popolazione a chiudersi sempre di più all'interno delle mura, abbandonando le campagne. Non era raro, infatti, che le razzie degli eserciti nemici si fermassero ai villaggi del contado, perché assaltare una città fortificata come Bologna era di gran lunga troppo impegnativo, quando non dispendioso. È possibile che entrambe le teorie siano fondate e la costruzione di porticati sia iniziata per rispondere a entrambe le problematiche, che si verificarono più o meno simultaneamente. Sebbene le prime testimonianze di portici in città risalgano addirittura al 1041, è particolarmente interessante un documento storico che li regolamenta, datato 1288. Si tratta di un decreto comunale che impone la costruzione di un portico davanti a ogni abitazione, sia di nuova costruzione che già esistente. Naturalmente a spese del proprietario, sia per la realizzazione sia per il mantenimento. Nel documento si leggono anche le misure regolamentari per l'intervento. Ogni portico doveva avere come altezza minima lo spazio sufficiente per permettere il transito di un uomo a cavallo. 7 piedi bolognesi, circa 2,66 metri. E chi ha letto con attenzione il primo capitolo sa anche come i cittadini potevano valutare la misura di persona. In seguito, l'altezza dei portici venne estesa a 10 piedi bolognesi, circa 3,80 metri. Va precisato, tuttavia, che nelle zone più povere della città i portici vennero costruiti con altezze sensibilmente inferiori a quelle regolamentari. In entrambi i casi, la larghezza della strada antistante il portico era stabilita nella stessa misura dell'altezza. I primi portici furono realizzati in legno di quercia, ma poi sostituiti dai colonnati in pietra che vediamo tuttora a opera di un decreto datato 1567, almeno nella maggior parte dei casi. Passeggiando per le strade della città, infatti, è ancora possibile trovare degli edifici con il portico originale in legno, come Casa Isolani in Strada Maggiore, Casa Grassi in Via Marsala, Casa Azzoguidi in Via San Nicolò e Casa Ramponesi in Via del Carro. Il primato di portico più largo va a quello trecentesco di Santa Maria dei Servi in Strada Maggiore, su progetto dell'architetto Antonio Di Vincenzo, lo stesso che iniziò la Basilica di San Petronio, mentre il più alto della città è quello del Palazzo dell'Arcidiocesi, in via Altabella, con i suoi quasi 10 metri di altezza. Il più basso? Quello di via Begatto. Il più lungo, naturalmente, è il Portico di San Luca, che detiene anche il primato mondiale per la lunghezza di un portico. Da tempo, i portici bolognesi sono un bene culturale italiano candidato come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La città della pietra di Luca.